prigioniero di te, prigioniero di un sogno, di un magnifico sogno che non mi lascia più. E sento nascere in me che ho la febbre nel cuore, una sete d'amore che mi incatena a te. L'unica fonte di tutta la vita di tu per me, ma quella fonte si ormai inaridita perché non ci sei più. Prigioniero di un sogno, di un magnifico sogno che mi farà fonte di tutta la vita di tu per me, ma quella fonte si è ormai inaridita perché non ci sei più. Son prigioniero di te, prigioniero di un sogno, di un magnifico sogno.